testa. Dimoli agnello di Dio, spalanchi le tue braccia su di noi, tu umile re, ricordati di me. O cuore trafitto d'amor e fonte d'eternità, il tuo sangue ci libera ed ogni stilla è riparo dal male, da ogni tenebra, preziosissima linfa per noi. Col tuo sangue lavami, sciogli il male dentro di me, nel tuo nome, Gesù, guariscimi, rinnovami, Gesù. Accoglie fra le braccia il tuo dolore, ti stringe a sé, figlio dolcissimo, morto e risorto per me e per tutti gli uomini. Nelle tue piaghe nascondimi, come rugiada il tuo sangue, nel cuore inebria l'anima, fiume di misericordia sarà. Col tuo sangue lavami, sciogli il male dentro di me, nel tuo nome, Gesù, guariscimi, rinnovami, Gesù, re dei re, asciuga le mie lacrime col tuo sangue. Guarisci.